punto detto non ne posso più. T'ho ricominciato a vivere, t'ho ricominciato a respirare. Sono più uno schiavo, sono libero. Potrebbe essere troppo tardi.